Ma io penso che prima di arrivare al governo questa maggioranza di centrodestra facesse propaganda e adesso continua a fare propaganda. Purtroppo hanno dimostrato di essere incapaci di gestire una vicenda che poteva essere e può essere ancora gestita tranquillamente. Per loro però è un investimento in termini elettorali. Abbiamo visto anche le ultime dichiarazioni sia di Meloni che di Salvini, che sono in conflitto con tutta evidenza rispetto al loro elettorato, e continuano a alimentare la retorica dell'invasione, cioè il fatto che sono troppi, che l'Europa ci lascia da soli, che non siamo in grado essenzialmente di gestire questi arrivi di persone in cerca di protezione. Non è vero, l'Italia ha già accolto un numero di persone anche superiore a quello che è arrivato quest'anno. Il punto vero è che il governo non vuole accoglierle queste persone, quindi lascia la situazione sia agli arrivi che poi nella distribuzione territoriale volutamente nel caos per continuare a avere queste immagini che confermano l'idea che ci sia un'invasione, che sono troppe, che l'Europa ci ha lasciati da soli. I dati pubblicati qualche giorno fa, il 5 settembre, dall'Agenzia Europea per l'Asilo, dicono ancora una volta che la Germania, la Francia, la Spagna nel primo semestre del 2023 hanno accolto più domande d'asilo dell'Italia. L'Italia, non è vero che è lasciata da sola, il flusso di persone che arrivano in Europa in cerca di protezione è aumentato nel 2023, ma siamo sempre dentro a numeri assolutamente gestibili. Infatti la Germania ha più del doppio delle domande d'asilo dell'Italia, eppure non c'è nessun allarme, anzi negli anni scorsi la Germania, pur avendo accolto più domande d'asilo e quindi avendo gestito un'accoglienza di un numero di gran lunga superiore a quello dell'Italia, ha anche aiutato l'Italia e l'avrebbe continuato ad aiutare se non fosse che il governo adesso, oltre che sulla propaganda, ha puntato sul fatto che le persone nel caos non vengano inserite nel sistema di rilevazione delle impronte digitali che si chiama Eurodac, quello su cui si basa il regolamento Dublino, e quindi possano attraversare l'Italia senza fermarsi, andare in Germania, in Francia e in altri paesi. E giustamente i governi di Francia e Germania hanno detto che li bloccheranno perché non possono, oltre a quelli che accolgono loro, accollarsi quelli dell'Italia che invece con tutta evidenza non li vuole accogliere. Tu prima parlavi di propaganda, dobbiamo annoverare nella propaganda anche il memorandum con la Tunisia? Ma sì, diciamo che il memorandum con la Tunisia, così come l'accordo con la Libia, così come quello con la Turchia, fanno parte certamente della propaganda della destra xenofoba, anche quella di governo, che ha come unico obiettivo, d'altro canto la Meloni ha dichiarato, di non far arrivare le persone. Cioè, quindi l'idea è di scaricare tutta la responsabilità su obblighi internazionali che discendono, diciamo, sia dalla nostra Costituzione che dalle convenzioni internazionali, su altri paesi, i paesi intorno appunto al Mediterraneo, alla sponda sud, e pagarli perché facciano il lavoro che noi non possiamo fare, cioè respingere le persone in cerca di protezione. L'abbiamo già visto in tutti questi anni con la Libia, adesso lo stiamo vedendo anche con la Tunisia, che le persone che scappano dalla Tunisia, in buona parte diciamo in provenienza dalla Libia, sono persone che hanno diritto a vedersi accolta la loro domanda d'asilo, e l'Europa semplicemente, siccome non li può respingere perché la Convenzione di Ginevra ce lo impedisce, e in Italia come nel resto d'Europa vige appunto la Convenzione di Ginevra e le direttive europee, chiede alla Tunisia di fare questo lavoro che altrimenti la Corte Europea e la magistratura dei singoli paesi bloccherebbe, come è già successo in Italia, appunto perché non si può fare, semplicemente non si può fare. Ovviamente tutto questo fa parte di una propaganda, perché alimentando l'idea che sono troppi, che non ce la possiamo fare, hanno convinto gli italiani, gli europei, spostando peraltro la cultura di questo continente a destra, che siamo di fronte appunto a una emergenza, a un'invasione, e addirittura Salvini ha usato la parola guerra, la Meloni continua a dire difendere le frontiere, ma qui siamo di fronte a persone che si presentano non solo disarmate, ma anche con le loro facce, dichiarano da dove vengono e non solo sono pacifiche, ma poi alla fine, come noi sappiamo, risultano, sono anche utili al nostro paese, sarebbero un investimento sul futuro di questo paese se noi fossimo in grado di accoglierli. E invece la propaganda ci costa cara, perché poi queste persone comunque rimangono in Italia, e a causa della mancanza di programmazione della disposizione di un piano di accoglienza che la legge obbliga il governo a fare, noi spendiamo più soldi di quelli che dovremmo spendere. Se queste persone andassero nel sistema di accoglienza e integrazione dei comuni, c'è una permanenza media delle persone in quel sistema di 9 mesi, nei CAS rimangono anche per 3 anni, perché nessuno se ne occupa di loro, nella gran parte, non in tutti diciamo, ma nessuno si occupa di loro, e quindi le persone stanno molto più a lungo, ci costano molto di più. Loro stanno continuando a puntare sulla propaganda, spendendo su questo i soldi degli italiani. Abbiamo visto anche delle tensioni nel sovraffollamento degli hub appunto a Lampedusa. Quali politiche di diverse dovrebbero essere attuate per ridurre la pressione degli sbarchi e gestire in modo ordinato i flussi? La questione di Lampedusa, diciamo, anche lì fa parte della propaganda. Loro hanno detto che mandando la Croce Rossa a Lampedusa avrebbero risolto il problema di Lampedusa. Non è vero, ovviamente il problema dell'affollamento del centro di Lampedusa si risolve semplicemente disponendo un sistema di trasferimenti ordinario, quindi non che ogni volta bisogna inventarsi un trasferimento, quindi cercarlo lì per lì sul momento, e in questo modo le persone volutamente, l'abbiamo già visto purtroppo in passato in altre situazioni, vengono messe davanti alle telecamere proprio appunto per confermare l'idea dell'invasione. Siamo di fronte a una situazione che potrebbe essere gestita se il governo disponesse i trasporti e quando le persone sbarcano, anziché metterle nel centro di Lampedusa e lasciarle lì anche solo per 48 ore o per 3 giorni, bisognerebbe subito trasferirle altrove. Sistema di trasporti ordinario, diciamo, che quindi fa la spola tra l'isola di Lampedusa. Il problema è che loro questo non lo vogliono fare, perché se lo facessero cadrebbe l'impalcatura della loro propaganda, quindi non ci sarebbe più l'idea dell'invasione se la cosa venisse gestita bene. Quindi loro gestiscono male sia gli arrivi che i trasferimenti appositamente, perché questo conferma la loro propaganda. A monte di questo però servirebbe anche canali di ingresso regolare? Sì, questa è un'altra questione su cui ovviamente questo governo e purtroppo l'intera Unione Europea si stanno esercitando, diciamo, per andare proprio nella direzione opposta, perché il patto europeo immigrazione e asilo va sempre più nella direzione di impedire alle persone di attraversare legalmente le frontiere. Quindi noi avremo nominalmente dei canali di accesso legale, però concretamente, come succede in Italia per esempio col decreto flussi, 450.000 persone, tante volte sbandierate, tutti sanno che il meccanismo con cui funziona il decreto flussi non consente alle persone di attraversare legalmente, perché il meccanismo si basa sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello planetario. Nessuno, o meglio molto poche aziende e famiglie assumono le persone senza conoscerle, e quindi noi obblighiamo le persone ad attraversare la frontiera illegalmente, poi si trovano un lavoro in Italia e poi partecipano al decreto flussi tornando nel paese d'origine, e questo succede sia per lavoro che per protezione. I canali d'accesso legale non ci sono, il governo e l'Europa stanno spingendo esattamente nella direzione opposta a quella che servirebbe, cioè a ridurre sempre più la possibilità delle persone di attraversare appunto le frontiere legalmente, tant'è appunto che hanno cercato in questi anni, ci sono riusciti spesso, di bypassare il principio di non respingimento contenuto nella Convenzione di Ginevra, delegando il respingimento ad altri governi che non sono quelli europei. Adesso stanno cercando appunto di forzare sempre più le leggi e le convenzioni internazionali, e il patto europeo per l'immigrazione e l'asilo punta addirittura a introdurre un meccanismo per cui le persone possono essere respinte anche se non sono del paese in cui vengono respinte, per il semplice fatto, diciamo, che un poliziotto, un impiegato dell'amministrazione pubblica del Ministero dell'Interno e decide che quella persona palesemente non è un richiedente asilo, e quindi, diciamo, applica una procedura che gli consente di rimandarla indietro in paesi che noi decidiamo essere paesi sicuri. Abbiamo visto quanto la Libia in questi anni non fosse un paese sicuro, lo hanno dichiarato tutte le agenzie delle Nazioni Unite, tutte le istituzioni internazionali, eppure noi continuiamo a respingere attraverso le milizie libiche le persone che scappano dalla Libia verso la Libia.